Ad alta voce, Elia Shilton legge Fame di Knut Hamsun, traduzione di Ervinio Pocar. Il giorno successivo nevicava ancora più forte. Cadeva una neve pesante e bagnata, a larghi fiocchi azzurri che appena toccavano il suolo diventavano fango. L'aria era aspra e gelida. Mi ero svegliato piuttosto tardi, con una strana confusione nella testa, dopo i fatti del giorno prima, e col cuore inebriato da quel bell'incontro. Estasiato ero rimasto ancora a letto, sognando di avere Eli Ali al mio fianco. Tendevo le braccia, abbracciavo me stesso e baciavo l'aria. Infine mi ero poi alzato, ero andato a bere una tazza di latte e vi avevo aggiunto una bistecca per togliermi la fame, ma avevo ancora i nervi scossi. Mi avviai verso il mercato degli abiti usati. Mi era venuta l'idea di acquistare, per pochi soldi se possibile, un panciotto usato, tanto da avere qualche cosa da infilare sotto la giacca. Trovai un panciotto e mentre mi accingevo a provarlo, vidi passare un conoscente. Egli mi salutò e mi chiamò, così lasciai lì il panciotto e gli andai incontro. Era un ingegnere e stava recandosi in ufficio. «Venite, andiamo a prendere un bicchiere di birra, ma fate presto che ho poco tempo». «E dite un po', chi era quella signorina con la quale passeggiavate ieri sera?» «Questa poi», esclamai, ingelosito al solo pensiero. «E se quella signorina fosse la mia fidanzata?» «Niente meno», esclamò. «Sicuro, ieri ci siamo fidanzati». L'avevo colpito in pieno. Mi credette sulla parola. Per liberarmene, gli raccontai un sacco di bugie e, bevuta la birra, riprendemmo la strada. «Buongiorno, dunque. E sentite un po'», disse improvvisamente. «Io vi debbo ancora alcune corone. È proprio un'indecenza che non ve le abbia già restituite da un pezzo, ma riavrete il vostro denaro prestissimo. Va bene, grazie», risposi, ma sapevo bene che non me lo avrebbe restituito mai. Purtroppo, la birra mi diede subito alla testa. Provavo un gran caldo. Il ricordo della sera precedente mi dominava, mi toglieva quasi la ragione. E se martedì non veniva? Se nel frattempo le fosse nato qualche sospetto? Sospetto di che? Ora i miei pensieri correvano all'impazzata. Pensai al denaro. Ero angosciato, atterrito mortalmente. Il furto mi si ripresentava dinanzi in tutti i suoi particolari. Vedevo la bottega, il banco, la mano scarna che afferrava il denaro e mi figuravo il momento in cui la polizia sarebbe venuta ad arrestarmi. I ceppi ai piedi e alle mani, cioè no, soltanto alle mani, anzi forse a una mano sola. L'ufficio di polizia, il verbale dell'ufficiale di turno, la sua penna che grattava, il suo sguardo. «Ebbene, signor Tangen?» Poi la cella. Le tenebre senza fine. Già, mi torcevo le mani convulsamente per farmi coraggio e affrettando il passo arrivai nella piazza del mercato. Là mi sedetti. Non diciamo sciocchezze. Come si poteva mai dimostrare che avevo rubato? E poi il commesso della bottega non avrebbe certo osato riferire il fatto, neanche se un giorno avesse scoperto come stavano le cose. Al posto ci teneva di sicuro. Niente rumore, niente scenate, per piacere. Eppure quel denaro mi pesava in tasca e non mi dava pace. Seduto su quella panchina, feci l'esame di coscienza e riconobbi mestamente che ero stato più felice prima, quando soffrivo in perfetta onestà. E Eli Ali? Non avevo trascinato anche lei nel fango con le mie mani macchiate. Dio, Dio, Dio mio, Eli Ali! Mi accorsi che ero ubriaco fradicio, ma mi alzai di scatto e andai difilato dalla venditrice di dolci che aveva il banchetto presso la farmacia dell'Elefante. Ancora avevo tempo e modo di sollevarmi dall'ignominia. Non era ancora troppo tardi. Volevo dimostrare al mondo intero che ero ancora capace di farlo. Camminando, preparai in mano tutto il denaro fino all'ultimo centesimo. curvatomi sul banchetto dei dolci come per acquistare qualche cosa, misi in mano alla vecchia tutto il denaro e senza dire una parola mi allontanai in fretta. Che sensazione meravigliosa quella di sentirmi nuovamente onesto. Le tasche vuote non mi pesavano più. Era un vero piacere essere di nuovo senza un soldo. In realtà quel denaro mi aveva procurato molte pene segrete e ci avevo pensato molte volte con terrore. Non avevo un animo cattivo e la mia natura retta si era ribellata a un atto così vile. Grazie al cielo ero risorto nella stima di me stesso. Fatelo anche voi, dicevo guardando la piazza brulicante di gente. Imitatemi un po'. A una povera vecchia avevo dato una gioia senza uguali. Certamente era rimasta sconcertata e felice. Quella sera i suoi figli non sarebbero andati a letto affamati. A questo pensiero mi montavo la testa e mi pareva di essermi comportato magnificamente. Grazie a Dio quel denaro non era più nelle mie mani. Ubriaco e nervoso passavo per le strade ed ero gonfio di orgoglio. Quale gioia poter andare incontro a Ilai Ali, onesto e puro, poterla guardare in faccia, una gioia che mi travolgeva, tanto ero ubriaco. Non sentivo più i dolori, la mia testa era vuota e limpida e mi pareva di avere sulle spalle una testa fatta di luce. Avevo una voglia matta di commettere sciocchezze, di buttare all'aria la città e di fare chiasso. Per tutta la Grenze mi comportavo come uno cui avesse dato di volte il cervello. Sentivo nelle orecchie un leggero ronzio. L'ubriacatura era arrivata alla testa. Entusiasmato dal mio folle ardire, mi venne voglia di dire la mia età a un facchino che non mi aveva rivolto la parola, di stringergli la mano, di guardarlo bene negli occhi e di piantarlo lì senza alcuna spiegazione. Nella voce dei passanti distinguevo ogni sfumatura, distinguevo le loro risate, osservavo gli uccelli che saltellavano davanti a me per la strada, studiavo le pietre del selciato e vi scoprivo ogni sorta di segni e di figure. Così arrivai fino alla piazza dello Sturting. Mi fermai improvvisamente a guardare le carrozze. I cocchieri passeggiavano l'intorno, chiacchierando fra loro. Il tempo era orribile e i cavalli stavano a testa china. «Andiamo!» dissi fra me, dandomi lo slancio coi gomiti. Raggiunsi di corsa la prima carrozza e montai. «Ullevelsvaie, numero 37!» esclamai e partimmo. Durante il tragitto il cocchiere si volse a sbirciare nella vettura. Aveva qualche sospetto? Indubbiamente, ero così mal vestito. «Ho là un appuntamento con un tale», dissi per prevenirlo. E gli spiegai in lungo e in largo che avevo bisogno di trovare quel tale a ogni costo. Ci fermammo davanti al numero 37. Io scesi d'un balzo, montai le scale fin su all'ultimo piano dove tirai il campanello. Lo sentii risuonare a lungo, spaventevole. Un rumore di passi. Una ragazza venne ad aprire. La guardai, vidi che aveva gli orecchini d'oro e i bottoni neri al grembiule grigio. Mi guardò spaventata. Chiesi di Gzerf, Joachim Gzerf, insomma, di professione commerciante in lane. Impossibile sbagliarsi. La domestica scosse il capo. «Qui non abita nessun Gzerf», disse, e guardandomi con tanto d'occhi fece per chiudere la porta. Non pensava neanche lontanamente di cercare l'uomo che volevo. Avevo veramente l'impressione che conoscesse quella persona, ma che non avesse alcuna voglia di pensarci, quella sfacciata. Indispettito, le volsi le spalle e scesi. «Non è in casa», dissi al cocchiere. «Non c'è? No, portatemi adesso nella Tomte Gate, numero 11. Ero in uno stato di folle agitazione e il cocchiere ne subì il contagio. Credette davvero che fosse una questione di vita o di morte e filò via facendo schioccare continuamente la frusta. «Come si chiama questa persona?» domandò da cassetta voltandosi indietro. «Gzerov, commerciante in lane!» E anche il cocchiere parve dell'opinione che non ci si potesse assolutamente sbagliare. Non portava di solito un soprabito chiaro? Come? Un soprabito chiaro? Esclamai. Voi siete matto, credete forse che vada in cerca di un infermiere? Quel soprabito chiaro mi contrariava e mi rovinava l'immagine che mi ero fatto di quell'uomo. Come avete detto che si chiama? Xerolf? Proprio così, risposi. C'è qualcosa di strano? Del nome non c'è mai da vergognarsi. Non è rosso di capelli? Poteva darsi benissimo che avessi i capelli rossi, e poiché lo aveva detto lui, fui subito d'accordo. Ero molto grato a quel povero cocchiere e gli confermai che aveva descritto esattamente l'uomo. Era proprio come aveva detto. Del resto sarebbe stato strano, osservai, se un uomo così non avesse avuto i capelli rossi. Sì, deve essere un mio cliente, confermò il cocchiere. Porta sempre un bastone nodoso. Ora lo vedevo chiaramente davanti a me. Perciò dissi, già, nessuno l'ha mai visto senza quel bastone nodoso. In quanto a questo potete star sicuro, sicurissimo. Era chiaro dunque che si trattava proprio di quel suo cliente. Egli se lo ricordava e viaggiavamo a una tale velocità che gli zoccoli dei cavalli sprizzavano scintille. In quel mio stato di eccitazione non perdetti la presenza di spirito nemmeno un istante. Passando davanti a una guardia, notai che aveva il numero 69. Quel numero mi fece l'effetto di una botta crudele. Mi si conficcò nel cervello come una scheggia. 69, esattamente 69, da non dimenticare. Mi distesi sul sedile, in preda alle idee più folli. Mi rannicchiai sotto il mantice perché nessuno vedesse che muovevo le labbra e incominciai a parlottare da solo come un idiota. La pazzia infuriava nel mio cervello e io non reagivo, ben sapendo di essere in balia di forze che non potevo più dominare. Ridevo in silenzio, senza alcuna ragione, allegro e ubriacato da quel paio di boccali di birra che avevo bevuto. A poco la mia agitazione si calmò e fui più tranquillo. Sentivo un gran freddo al dito ferito e lo infilai nel colletto della camicia per trovare un po' di caldo. Arrivai nella Tomte Gate. Il cocchiere si fermò. Scesi lentamente con la testa vuota e pesante. Entrai in quella casa. Trovai un cortile, lo attraversai, incontrai una porta, entrai in un corridoio che pareva un'anticamera con finestre. In un angolo c'erano due valigie l'una sopra l'altra e lungo la parete un vecchio divano di legno naturale con sopra una coperta. Dalla stanza a destra udii voci e strilli di bambini e sopra di me al secondo piano un martello che batteva su una lastra di ferro. Entrando notai tutto ciò con la massima chiarezza. Attraversai tranquillamente l'anticamera verso la porta opposta, senza alcuna fretta, senza pensare a una fuga. Aprii e mi trovai nella Vogtmansgate. Mi volsi a guardare la casa in cui ero passato e lessi sopra la porta ristorante e alloggio per viaggiatori. Non pensai neanche lontanamente di cercare di scappare, piantando là il cocchiere che mi aspettava. Passai tranquillamente per la Vogtmansgate senza alcun timore, senza la coscienza di commettere un torto. Xerulf, il commerciante in lane che mi danzava nel cervello come uno spettro, l'uomo che avevo inventato e che dovevo incontrare a tutti i costi, era ormai scomparso dai miei pensieri, già spento insieme con le altre idee folli che vi si alternavano. Lo ricordavo solo vagamente, come una cosa molto lontana. A poco ritornai alla realtà e procedendo per le strade mi sentivo torpido e abbattuto e strascicavo i piedi. La neve cadeva ancora come una pioggia di cenci bagnati. Infine mi trovai presso la chiesa di Grönland. Mi sedetti su una panchina a riposare e mentre i passanti mi guardavano con stupore mi abbandonai ai miei pensieri. Santo cielo, com'ero ridotto male. Ero tanto stufo e stanco di quella vita miserabile che mi pareva non valesse più la pena di lottare. La sventura aveva preso il sopravvento e mi aveva trattato troppo brutalmente. Ero come annientato, non più che un'ombra ormai di quello che ero stato un tempo. Avevo le spalle curve e avevo preso l'abitudine di camminare piegato in due per risparmiare un po' i polmoni. Pochi giorni prima avevo passato in rassegna il mio corpo, un pomeriggio lassù nella mia camera, e non avevo fatto che piangere. Da molte settimane portavo la stessa camicia. Era rigida di sudore e invecchiato e mi aveva prodotto una leggera abrasione all'ombelico. Dalla ferita usciva un po' di siero sanguigno, ma non faceva male. Però era ben doloroso vedere quella ferita sul mio corpo. Non sapevo a che santo votarmi. Da sé non voleva guarire. Perciò la lavai, l'asciugai con cura e indossai ancora la medesima camicia che dovevo fare. Seduto su quella panchina, ripensavo a tutte queste cose ed ero assai malinconico. Avevo ribrezzo di me stesso. Persino le mani mi parevano ripugnanti. L'aspetto trasandato e impudente delle mani mi dava pena e disgusto. Le dita, magre e sottili, mi sembravano rozze e grossolane. Odiavo il mio corpo afflosciato. Rabbrividivo all'idea di doverlo portare, di doverlo sentire. Dio mio, almeno avessi potuto farla finita, sarei morto tanto volentieri. Sconfitto, umiliato e pieno di vergogna, mi alzai meccanicamente e ritornai a casa. Per la strada passai davanti a una porta sopra la quale c'era scritto «Addobbi funebri presso la signora Annesen nel portico a destra». Antichi ricordi, dissi fra me, pensando alla mia stanza di Amersburg, alla sediolina a dondolo, ai giornali attaccati sulla porta, all'annuncio del direttore dei fari e al pane fresco del fornaio Fabian Olsen. Eh sì, allora stavo molto meglio. In una notte avevo scritto un articolo per 10 corone. Ora non ero più capace di scrivere. Non sapevo scrivere assolutamente niente. Appena ne facevo il tentativo, la testa mi si vuotava. Ormai bisognava finirla. E camminavo. Quanto più mi avvicinavo al negozio di coloniali, tanto più sentivo istintivamente che mi avvicinavo a un pericolo. Ma non abbandonai il mio proposito. Volevo costituirmi. Salii tranquillamente i gradini del negozio. Sulla soglia incontrai una bimba con una tazza in mano. Le passai accanto ed entrai. Per la seconda volta mi trovai di fronte al commesso. «Ah!» disse. «Tempo orribile oggi!» Dove voleva arrivare? Perché non mi aggrediva subito afferrandomi per il petto? Infuriato gridai. «Non sono mica venuto per discorrere del tempo!» La mia agitazione lo sbalordì. Il suo piccolo cervello di mercante rimase inceppato. Dunque non si era reso conto del fatto che l'avevo imbrogliato di 5 corone. «Ma non vi siete accorto della mia truffa?» esclamai impaziente, respirando affannosamente, tremando, sapendo che se non fosse entrato subito in argomento gli avrei messo le mani addosso. E quel povero diavolo non immaginava niente. Con che gente stupida si è costretti a vivere. Lo investì, gli spiegai per filo e per segno come erano andate le cose, gli mostrai dove ero io, dove era lui in quel momento, dove era stato il denaro e come l'avevo stretto nella mano. E lui, pur comprendendo tutto, non mi faceva nulla. Si voltava di qua e di là, tendeva l'orecchio verso la stanza attigua, cercava di farmi tacere o almeno abbassare la voce e disse finalmente: «Però è stata un'azione piuttosto meschina. Aspettate, aspettate, non è tutto!» dissi soltanto per contraddirlo e stuzzicarlo. Spiegai che non era stata un'azione così bassa e gretta come se la figurava lui con quella zucca di bottegaio. Non avevo mica tenuto quel denaro, neanche per sogno. Non potevo certo cavarne un vantaggio personale. Sarebbe stato contrario al mio carattere, profondamente onesto. E che cosa avete fatto di quei soldi? Ecco, se proprio voleva saperlo, li avevo dati a una povera vecchia fino all'ultimo centesimo. Ero fatto così, non potevo fare a meno di pensare ai poveri. Quello rimase lì a riflettere. Evidentemente non sapeva se considerarmi un individuo onesto o no. Alla fine disse: «Ma non avreste fatto meglio a restituirmi quel denaro?» «Ah, guarda, questa è bella!» risposi sfacciatamente. «Non volevo che voi aveste delle noie, volevo risparmiarvi ogni seccatura. Ed ecco la gratitudine quando si è gentiluomini. Vengo qua, vi spiego tutta la storia e voi non vi vergognate nemmeno, non muovete un dito per eliminare il nostro conflitto. Io sono innocente e me ne lavo le mani e voi andate pure all'inferno. Addio!» E uscii, sbattendo la porta.